C'era un uomo della montagna di Efraim che si chiamava Mica. Un giorno disse a sua madre: «I 1100 sicli d'argento che ti sono stati presi e riguardo ai quali hai pronunciato la maledizione che ho udito con le mie orecchie, li ho con me, che sono stato io a prenderli. Ed ora te li restituisco». Esclamò allora sua madre: «Che mio figlio sia benedetto dal Signore». Costui restituì i 1100 sicli d'argento a sua madre, la quale disse: «Voglio consacrare di mia mano questa somma di danaro al Signore per mio figlio, per farne una statua di metallo». Dopo che Mica ebbe restituito a sua madre il danaro, questa ne prese 200 sicli e li consegnò al fonditore, il quale ne fece una statua che poi rimase nella casa di Mica. Così quest'uomo, Mica, ebbe un santuario, si fece un efod e i terafim, e dette l'investitura sacerdotale a uno dei suoi figli, che gli faceva da sacerdote. Ciò fu possibile perché in quel tempo non c'era re in Israele e ognuno poteva fare quello che gli piaceva. C'era allora un giovane della tribù di Giuda, della città di Betlemme, della stessa tribù, che era levita e abitava in quella città come straniero. Quest'uomo un giorno si mosse dalla città di Betlemme di Giuda per cercare un altro luogo qualsiasi in cui stabilirsi. Giunse così, cammin facendo, fino alla montagna di Efraim, proprio alla casa di Mica. Mica gli domandò di dove veniva ed egli rispose: «Sono un levita di Betlemme di Giuda e vado cercando un luogo qualsiasi in cui stabilirmi». Allora Mica gli propose: «Resta con me, mi sarai come un padre e mi farai da sacerdote. Ti darò 10 sicli d'argento all'anno, vestiario e vitto». Il levita accettò e cominciò ad abitare nella casa di Mica, che lo trattava come uno dei suoi figli. Mica dette l'investitura sacerdotale al levita, cosicché il giovane gli faceva da sacerdote e abitava nella sua casa. Mica pensava: «Ora so che il Signore mi sarà propizio, perché ho questo levita che mi fa da sacerdote».